qualche persona che ascolta queste mie riflessioni sulla liturgia, sulla Santa Messa, mi ringrazia perché dice: ho imparato a gustare le orazioni, a scomporle, a vederle nei suoi verbi, nei suoi sostantivi, nei suoi aggettivi, e a gustare veramente il linguaggio che poi ci dice la realtà della Santa Messa. Per questo io anche oggi vorrei parlarvi del prefazio di oggi. I prefazi ambrosiani sono famosi in tutta Europa, presso anche gli studiosi, e considerate che sono ricchissimi sia di contenuto sia di forma, perché tutta la Quaresima, tutto l'Avvento e tutto il tempo pasquale, ogni giorno c'è un prefazio diverso dagli altri. Quindi capite che c'è dentro, basta farsi cercatori di perle, cercatori di tesori, e li troviamo. Oltretutto, meditare, imparare a meditare sulla liturgia ha anche il vantaggio che meditiamo su una dottrina sicura. Non tutti i libri, non tutte le preghiere sono così sicure come invece avviene per la liturgia. E poi partecipiamo della preghiera di tutto un popolo. Milioni, migliaia di persone dicono queste preghiere, partecipano di queste preghiere. Dunque il prefazio di oggi dice: nel Signore crocifisso e risorto, l'uomo, perduto con la colpa di Adamo, per la sofferenza patita da un Dio, ritorna alla dignità primitiva. Comincio a guardare questa frase. Nel Signore crocifisso e risorto. Noi non dobbiamo mai separare il crocifisso dal risorto. Non è cristianesimo. Nello stesso tempo, se contempliamo il risorto, ricordiamo che la sua risurrezione è stata pagata dal suo sangue. L'uomo perduto con la colpa di Adamo, vedete, se pigliamo il gusto di scoprire le parole, ci colpisce anche questa parola, l'uomo perduto. Perduto è una parola forte, non dice smarrito. Smarrito vuol dire momentaneamente fuori. Perduto vuol dire che si è perso. Per la sofferenza patita da un Dio, ritorna alla dignità primitiva. A me ha sempre colpito questo, la sofferenza patita da un Dio. Non dice semplicemente patita da Dio. Dice, guarda che è stato un Dio, Gesù, figlio di Dio. La sofferenza patita addirittura, mettiamo lì, da un Dio. E cari amici, non abbiamo forse ancora capito cos'è il sacrificio eucaristico. Chiamiamo Santa Messa e va bene, ma il nome vero è il sacrificio eucaristico. Continua. Cristo Redentore percorse il nostro cammino fino alla tragica umiliazione della morte. Anche questa parola, Redentore, lo diciamo chissà quante volte, ma redimere vuol dire riscattare, vuol dire pagare un prezzo, un riscatto, come se uno fosse stato sequestrato e bisogna pagare un prezzo per liberarlo. L'ha pagato Gesù. Cristo Redentore percorse il nostro cammino fino alla tragica umiliazione della morte. Non è semplicemente stato, a parte che è stato ucciso, e immagino sua madre cosa voglia dire, no? ma è stato una morte umiliante. Se ripercorriamo la passione e l'uccisione sul Calvario, quante gliene hanno fatte patire. La pietà cristiana le ripercorre nella Via Crucis e poi si ferma a contemplare. Vieni giù, dai! Tutto quello che hai detto, che hai fatto, persino un ladrone vicino a lui lo insultava e lo scherniva. Non basta che l'hanno ucciso, l'hanno umiliato. E ci consente di raggiungere il traguardo della vita immortale. Non dimentichiamo di tenere presente che ci aspetta il paradiso. Questa parola ricorre così poco nelle nostre labbra e così poco anche nella Chiesa, mi sembra. Siamo tutti andaffarati a risolvere i problemi di qua giù, dei poveri. Mancherebbe altro, mancherebbe altro. L'hai fatto a me, dice Gesù. Ma il nostro destino è il paradiso. Il nostro destino è la felicità eterna. Si usano ancora queste parole? Mai più sentita, la felicità eterna. Se il mondo d'oggi conoscesse la felicità eterna. Ricordo ultimamente un giovane uomo che ha abbandonato la moglie e i due figli è perché si è innamorato di un'altra donna. Cosa ci deve fare? Si è innamorato, ho preso un appartamentino, prende la sua borsa e se ne va. Io gli ho detto: forse sarai contento, ma non sarai felice. Riconoscenti e ammirati per questo disegno d'amore, uniti agli angeli e ai santi, ti eleviamo, o Padre. Ecco, non dimentichiamo mai, uniti agli angeli e ai santi, la Santa Messa convoca all'altare tutto il cielo. Gli angeli, i santi, Maria Santissima, e loda non solo Gesù, ma anche il Padre e lo Spirito Santo. Bravi voi che venite a messa anche i giorni feriali, credo che abbiate capito che non c'è preghiera più grande, più completa, più bella della Santa Messa.